chiama, quello che giusta vanno a fare di parte, mi ha lavorato un sacco di roba. No, è molto bravo, molto molto bravo, veramente. Insomma, ha portato un altro po' di materiale, c'è un altro po' di microfoni. Trova con un M600, quello da tavolo, che non so manco, era dentro l'armadio. C'è 20 anni fa dentro l'armadio. Ne ho trovato un bel roba. Però tutti a lui, così se li mette a posto e ne mette tutti in vetrina. Ma li avevi già fatti, 9:15, io ci ho fame, ma ho mangiato avete voi. Io sì, io ho mangiato e niente, ho portato anche il cane, presto. No, io l'ho portato alle 8:10. Alle 8:10 l'ho fatto, poi è uscito anche un po' pranzo, mi è già dormito, lo farò qua, con gli occhi chiusi, vabbè. Va bene, dai, io vi abbandono per il momento, se ci siete a dopo, mangio un boccone e poi mi entro qua che c'è la partita, mi guardo la partita e continuo a sistemarmi questo armadio, così è vuoto e siamo a posto qua, non c'è altro da fare. Dai, vi saluto, ciao Gianni, ciao a Tino che sta lavorando su quella cosa lì, ciao Antonio, Gianni Rubraffetta e tutte cose. Avanti Rubraffetta, ci sei? Ehi, sì, mi sono andato così al volo, giusto per salutarvi ragazzi, dai. Vi devo abbandonare, quindi niente, buona serata e buon proseguimento, ci risentiamo appena coincide, ok? Salutoni e niente, dai, buon proseguimento. Ciao Gianni, ciao concorrenti, dai, ci sentiamo. Ciao anche a Claudio, a dopo. Ciao, ciao ragazzi, sentito uno che rileva, uno qui. Sicuramente va a tornare quello che disturba. Va bene, divertitevela, io vado a cenare, ciao ciao. Non è roba del genere, non ti preoccupare. Ma a me può farmi sui bari piazzi. Nuda ti devo e nuda mi devi. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao. Già fatto, già ho detto tutto quanto. Dai, già ho mandato anche il messaggio. Adesso vediamo cosa mi risponde, sicuramente è al lavoro. Ma è meglio che lo veda lui, così magari riesce anche a capire se si possono mettere in quella maniera, se stanno ostacolando qualcosa, capito? Tecnicamente lui lo sa, perché i miei non erano così, assolutamente. Erano girati al contrario, i piedini entravano nel circuito stampato e venivano tenuti dal circuito stampato stesso. Questi sono appoggiati, un clic a colla. Se magari hanno modificato qualcosa, capito? Poi lui già lo sa, eh. Ci sentiamo dopo se coincide, ciao, buona cena a tutti, bye. Ciao, ciao, avanti, Popolino. Capa, dai, saluto, ci sentiamo, anche a te Gianni Rubraffetta, sei ancora in ascolto, ci sentiamo in prossimina. Eia, alla prossima, ciao, ciao. Capa, e già. Comunque ho notato una cosa, che quella cosa là va meglio, lo sai, quando se si attacchi va meglio l'erogazione, ho notato quella cosa lì, quando ieri. Quando attacco io? Sì, ho notato che va meglio, non tanto quanto, cioè in potenza vabbè. Però va meglio l'erogazione, io mi inabizzo, capito? Cioè non è, come ti posso dire, prima si sentiva un pochettino che quando soffriva un po', adesso con la sofferenza non ce l'ha più, lo sai. Perché sto scendo con 5 watt, capito? Sì, no, ma è proprio diverso. Guarda, adesso c'è la sofferenza che dici tu, perché adesso sto uscendo con 3.00. Sì, però un po' meglio. Può essere che anche il campo che ho cambiato, tutto insieme, là. Quello ti ho detto, mi sono capitato subito io. Sì, quando alzi la compressione si sente, però... come si dice, però molto molto molto meno, molto più attenuata, capito? Non si sente in lontananza, perché io ho parlato con lei, ci dicevano che la radio era perfetta, forte, chiara, il segnale era buono. Ho parlato con come lei c'è propagazione, non vinila, non è che c'è la propagazione, era una propagazione di campo, loro mi arrivavano 3-4, mi arrivavano 8. Sì. No, secondo me questo cavo ti ha dato qualche miglioria, ti ha dato. No? Adesso sì, ha alzato un bel, si sentiva, però non si sentiva come quando, come prima, capito? Sì, la compressione si sente, però non come prima. Non sa, la sua sente solo la compressione. Sì, sì. Appena appena di saturazione ce l'ha poco, perché è troppo superante. Però prima era proprio usato lo, adesso non lo fa più quello. Se lo metti giusto, va. Non regge di più questa cosa qua. Aspetta che mi accendo le luci, che non mi ha acceso gli strumenti. Capa. Capito dov'è la cosa? Mi sono cambiato subito. Ma è come ti intupigli un tubo d'Eva. Lo metti più piccolo, lo metti più piccolo e esce una maniera, lo metti più grosso e esce un'altra maniera. C'è una piccola differenza, c'è. Qualche cosa, sì, magari. Stazionari sono buoni, uno e uno, stazionari. Che vanno bene. Antonio è pronto a mangiare ancora. Sono pronto a mangiare. Ah, sono a stecchetto. Ancora devi venire Maria De Filippi, no? Perché Maria De Filippi? Non c'è uomini e donne, la replica. Mia moglie non la guarda dopo pranzo e circolica. E quindi se la baita dall'8 alle 9, poi ci aspetta 10 minuti. Sto via. Non sa da digiuno che va Maria De Filippi. La via lì a derubare, Alicia, ma cioè a digiuno la via da gabbia. Visto che sono sacchiotto, non ve la razzi. Che di chi signa noi, ballerini. Tanto Maurizio, come ti chiamo? Maurizio Costanzo e le sbiccone, come ti chiamo? Orecchiotto. Ai ai ai. Cos'è Gianni Saturo, dove? Ma cacca fa la vecchia? Noi sì, e tu? No. Ma è fatta ancora, come mai? Istiticoci. No, perché non ho mangiato. Allora, mangia il cacca. Ma le cacchi quando sono? No, li fichi quando sono, li fichi. Non è periodo, lasci. E quando li cacchi? I cacchi sono già passati, ce li hanno tutti caccati. Sono qui di meno. E beh già. Ciao. I cacchi ci sono qui di meno, ti piace? No, non ci vado molto io per i cacchi, l'aria è Anna, sia per quelli normali e perché per quelli mela, io no. A casa me le compravo già. A me piacciono qua, ma la mia cosa è di trovare quelli legosi, ma è il mio problema, perché quando li trovi legosi mi fanno schifo. Ah, la cosa è molto moda, ma mi piace. Capito. Caccomela già lo posso anche mangiare, l'importante è che non leghi la bocca. Mi ha fatto un po' Luca e dicono che erano molto molto buoni, però vedi quelli fatti in campagna, staccati dall'albero, è una sagoccia, ma questi che portano sono, non so dove arrivano. Ci sono anche quelli sardi. Ci sono anche quelli sardi, io c'ho un negozietto sotto casa che porta tutta la roba sarda. Le uova, per dire, sono della zona di Sassari, la zona di Filigheto. Poi c'è la ricotta del pastore di Usilo, c'è il formaggio di Usilo, c'è tutte queste cose qua. Il formaggio quello con i vermi passati nelle vaschette là, che sono come piccati. Io lunedì vado a Piazza delle Segne, c'è Giovanni che è di Usilo e prendo tutto da lui, capito? Poi prendo la ricotta mustia che è buonissima, ricotta fresca, c'ha. Poi stamattina ho preso il baccalà, che a me piace molto fare il forno con le patate. Cioè io per il formaggio lo prendo lì, non lo prendo nei negozi. Aspetto, ogni lunedì vado e prendo il formaggio, la roba che mi serve da lui, capito? Mangiamo? Bello ragazzi, mangia, allora vi saluto. Ehi, vai a casa, buona carta. Grazie, Maria De Filippi, allora mangiamo. Riprendi, Anto. Capa. Le lasci. Avanti. Già. Con me, tutti Svezia, che te mi contas? Mi è stanco, sono già, oh via. Come sta? Un bel. La doccia poco fa, ho cenato, e va su quel relax. Io ho messo... Come sta lavorando? Campagna. E cosa stai facendo di me? A casa. Casa per voi? E alla paga. Non lo so, magari te l'hai aiutato con la vita, ma scusa, c'è cosa riso? No, per noi. Mimi è nuovo. E la stai facendo tu da solo? E anche cosa so, ok. Un'impresa. Stai aiutando, eh? Vabbè. Piano, piano. Quindi ti accasi? Pagando. Un attimo di bianco, arrivo subito, ma la camera la paglio lì. Così la verna te la puoi mettere tranquilla. Capa. Che caldo il tuo bardo. Ho visto il mare suo lì. E già visto un mare prima. Mi hanno tagliato anche il capo, non sono ricordi. Sì, ma era niente, guasta era. Sì, gente ignorante, non è guasta, ignorante, che non capisce, non vuole sapere di parlare, di discutere niente. Non è accetta di discussioni. Fida e fascia. Sì. Ma la batti pure la cucina, allora non vedi manco tu, come sta con la Gesù, gli ha tagliato tutto. Chi è tu, Sì, ma poi ti metto la guerra, tu, non si può vivere così sempre guerreggiando, cazzo con l'asso. Ti metto la guerra. Tu la guerra l'hai fatta a me, la porta a te. Lo so, però da parte di uno deve iniziare a farci, no? Io lo so, se non basta ne bisogna cavanare pure, me. Se non basta questo. E tu no, cioè può essere qualsiasi motivo, tu non devi salire a tagliarmi niente. Perché se no io, tu non vedi più televisore, che ti scudo mentalmente l'antenna io so. Quello senza ombra di dubbio, che non devo toccare la roba degli altri, però ci sono modi e modi di affrontare le cose. Se tu lo fai a me, io lo faccio a te, è reciproca la cosa. E diventerà sempre una guerra. Non si troverà mai un punto d'accordo facendo così. Tu non fai rispettare l'altro e non si trovano tutti d'accordo. Io non avrò dubbio a trattare. Ma tu non avrai di più in televisione, anche tu cugna. Ogni 3-4 di cazzo che te ne rappo l'antenna in terra e ti si strappo un capo. E voglio vedere. E poi vieni a Maidame, vieni, piglio il tubo e tu ti ricordi a fianchi. Perché non è giusto che tu vieni e mi fai queste cose. Chi ti dà il diritto a te? Quello senza un po' di dubbio. Rispetto dove finisce la tua libertà inizia a quella di un'altra persona, quello bisogna sempre metterlo in atto. Beh certo, no. Se tu vieni me lo dici e troviamo un punto d'accordo e vediamo come si può sistemare la cosa, ma non è che tu vieni con la Gesù e me ne dagli tutto, no, non ci stiamo. E quando lo poni il judo duro, a volte mettono anche il chiodo, nel filo, per farti massa e ti vedi quasi più. Se mi fai quello è diversa la cosa. Ma qualcuno già l'hanno fatto. Guarda, te la vedi subito, come ti chiudi i primi due importanti, te ne accorgi subito. Ma questi qua tutto fa lo scarac. Non ci capisce niente. Tu vuoi parlare che ti parla un po' con scala, se ci ha attaccato lo strumento te ne accorgi. Te ne accorgi per forza. Ma Antonio si sta addormentando. No, ho fatto lo sbadiglio, te ne accorgi per forza se c'è qualcosa, dei primi colpi importanti. Se da voi faccia pure un giodo, guai. Cappa. Perché mi devi mettere il chiodo a me? Cappa, è giusto. Cappa. Da voi un giodo te lo mongo in luce. Purtroppo c'è gente che non ragiona e fa queste cose. Io lo so che fa queste cose, ma io ragiono meno di loro. Cioè, ora divento tonto me quando fanno queste cose, è una ftinuda. Cioè, hai compreso? poi quando sono con questi due ancora peggio, è un casino, eh. Perché devi venire a danneggiarmi la roba? Io vengo a casa tua, a pigliare a quei piedi bicuraian, non ci vengo io a casa tua, perché devi danneggiare la roba a me? Cosa? Un attimino solo che sta staccando. E vai fai. E avanti. Beh. Buonasera. Ciao Antonio. Ecco che mi stai riescando. Ecco qua. Non si è passata la previsione, se non si può fare nulla. Ciao Macchiagiani. Ha smesso perché non so cosa sta facendo, boh. È così. Scappa. Stavo parlando di gente cretina, stavo parlando. Beh, ce n'è in giro, questa voglia. Di quelli tipo quello che avevate beccato voi, che ne lascia candere l'antenna. Ma l'avevi raccontato tu. Che ne abbiamo staccato l'antenna? Probabilmente più che mi aveva raccontato di un fatto a un tuo parente, forse. Ma stai scherzando? Mio parente? Antenna, no. Che l'aveva temito sul tetto? Quello è mio cognato, via. Quando mi cava vicino alla zona tua, mi sommava e ho caricato giù e l'ha fatto per la terra. Ha giocato tu, non lo di nulla. Se riesci a dire, tu della gambicciola, te l'ho fatto io su. Una badogliosso, ui, esci da una guerra, burro. Fate l'amore, non fate la pace. A parenti tutti. Allora, no, io un giorno ci ho provato, buonasera di nuovo a tutti, ci ho provato però mi ha detto no, vi buttare giù che sono 9 piani, scendiamo al secondo piano, allora scendiamo al secondo piano e ti butto al secondo piano. Andiamo al secondo piano, la mia suocera ti butto da lì, bene va. Meglio così. Che grande è successo? Sto scherzando, ho fatto una battuta. No, a me non mi è mai successo, comunque sono cose brutte. Quando succede così, non ne voglio bere, iniziano le lotte, i malumori, ti rimbalza a vista dei romacchini della radio. Ciao Tony, buonasera, ben ascoltato. Datemi 2 secondi che mi organizzo qua al televisore, se c'è la partita, già sono qua. Ciao Claudio, anche a te. Con la batteria mi sa, mi scarica, non lo so. Scarica, ma ci vedi che mi dimentico sempre. Tante cose che fa, arriva poi da Lotti, e se me lo chiedo, la batteria l'ho solificato. Non virai? Non lo so. No, io ce ne ho sempre una di scorta. Vabbè, la tengo per l'altro microfono, dai. Diciamo. Sto male da coppa, perché sta col tuo microfono metto l'altro. Alcalina già vanno bene. Ecco qua, microfono normale, è a posto. No. Sì. Un po' il MacGhe. E MacGhe, è maletta MacGhe. Ah, no, già va bene, va. È un microfono normale, suo originale, hai capito? Domani capita la batteria qua. Sì, lo so. E conviene tenere una di scorta. Sì, ma chissà che spavento anche la baracchina qua. Vabbè, no, siccome io la tengo perché ne ho due, ne ho, con la batteria, vabbè, non è che le uso spesso, ne ho due, c'ho le MB+4 e gli M1000, ogni tanto le... cioè, la tengo di scorta, la tengo, si sa mai, che magari anche usandolo, qualche voce assai può capitare di, come si dice, anche io ne ho sempre 2 di scorta. Io neanche una di scorta, c'è solo la ruota di scorta tu. Perché tu non sei un grande parlatore al baracchino, quindi lo usi poco. Già, con 2 fiducie che ho, abbiamo già qua. No, ma non è per quello neanche, si può scaricare anche non usandolo, col tempo. Se il microfono è ultimo, il microfono c'è dispersione, stai tranquillo che non si scarica. Io ho avuto lo stesso microfono tempo fa, uno da tavolo, e dirò una cosa, la batteria ce l'ha semiglio, non si è mai scarica, mai. tiro dietro per bloccare il funzionamento. Ecco perché c'è una portantina, ecco perché si è chiuso il fischio. E chi è? No, sono Splatter. Chiama il capotante. Sette rosse. È attaccato un pochettino. No, c'era qualcuno al canale vicino. Perché nel 12 c'è la rotta in Porto Torres, come ogni sera. No, non è sull'11 normale, e poi ci pone al fianco all'11, al 10, per fare le prove. Sicuramente. Vabbè, no, a me non mi ha dato fastidio, la verità. Ma a me neanche, perché facevate tutti. Però, vedo un sottosfondo leggero leggero, se tu poi ho mollato già, mi sono portato. Ah, che un lineare, perché da Santiago sull'11 no, è sceso poi a 7. Oggi è importante di nuovo. No, era sull'11 l'ho portato, stavo provando. Ci abbiamo provato l'ingorga, abbiamo fatto meglio. Andiamo giù a Bucaresti. C'è visto l'ago dell'ospite che è sceso, salito, sceso, picchiava, a me non mi ha fatto la direttrice. Sì, ci mettono il canale di accento per disturbare, capito? Ci hanno dato un gaggino, questo era un buon che l'abbiamo fatto meglio. Capa, no, vabbè, non è che ho fatto più di tanto. Non è che... conservate tutti, non c'è problema. Fallo Yuga. Se vuoi giungare sono con pronto. Capa, ma ancora l'hai che sul gozzo? Allora, adesso me l'ho comprato, per non quello. E tu l'armadio l'ho messo, ma se serve già ci vuole 5 minuti. Capa, io do... No, se comprare... no, però non si può trattare. Che dubbezione. Ma il drone stai dicendo tu? Ehi, chi sono i vari buccioni di rovino? Ehi, sempre in terra, vicino a me, in terra però, capito? Quando serve ci vuole 5 minuti attaccato. Minchia, quello lì, quella è una bestia. Cazzo, besa un trono, besa va. Quello che fa contenta l'Enel. Cosa già? Ho detto, qual è quello che fa contenta l'Enel? Ecco l'avvallo, però c'ha due tubi 872, un pelaiaiso e quello lì. Ma non mi interessa, ma io vado bene così. Vado bene così. Importante non mi sia nessuno me lo per le balle, se no, io posso passare tutto il mattino, porta in campo. Io appena sto bene mi piazzo la certa nascita contenta. Ho 8 metri di palo e una signora manda la 5. Trovamela. Ma ce l'ho io, poca roba. Me ne stanno quando sto mica, perché da quando mi hanno operato se comincio in via, a me pare che me ne ha aumentato le linee del disco, cazzo. Tony, ragione per cui il povero professor Miris, no? Che era il primario di ortopedia dell'ospedale Marino di Albiera, se c'è il figlio Giuseppe, siamo molto amici. Ma ha detto Claudio, se ci vuoi, ci puoi convivere, convivici. Perché non è detto che poi stai meglio. Effettivamente ci convivo, ma non me ne ha fatti nulla, non mi posso toccare. Sì, ma a me dunque non è quel dolore che ho prima, che io mi fermavo l'odore forte eccetera, adesso il dolore è diverso, ma mi fa zimare, io vado troppo in finito perché mi sto cucinando, poi mi devo sedere per forza, perché se non mi chiedo niente, va andando aumentando e forte, mi prende da sotto le nati che scende giù vicino alla coscia, dietro la coscia. Solo lì, poi basta. Faccio per volere il disco, giustamente mi prendeva tutto in sede, fino a dopo parlare, adesso voluto. Però cazzo di tutti, il dottore che mi ha operato mi ha detto, sono i muscoli fiammati, ma che cazzo fiammati, mi ha fatto una fare da cura di cortisone, per 10 giorni l'ho giubato, io finalmente non l'ho visto. Sono sempre uguale. Adesso domani devo andare da lui a fare un'altra visita, 100 euro soltanto, ma mi dimmi e dimmi cosa potrei avere, io sono curioso perché mi ha operato, mi fa la pazienza. E vediamo cosa dice, se mi ordino un'altra visuale, se la visita. Casino, è un casino, anche mia moglie fa la risonanza, poi c'ha marzo c'ha un attacco, è un casino, guarda. quando inizia non si finisce più, vabbè, avanti Gianni. Io farò sbagliare, ce l'ho tutto il corpo di dolore, non per lui come non faccio dolore, stamattina quando mi alzo sono in cotarruccio, parla, dopo già lo riprendo, come mi muovo, mi faccio, ma come mi alzo la mattina, mattina quando mi alzo, allora prima mi devo cedere un pochettino, perché se mi alzo in colpo cado perché non c'ho più forza, cioè perché ho il bacino fratturato, mi dà quella sensazione, allora mi giro un pochettino, dopo qualche minuto, poi piano piano mi alzo. A volte cammino piano piano dopo, che hai intanto a tornare e poi mi riprendo, però andare nel tempo mi fa giocare, non lo so fare. Io sono curioso, quello che mi ha che faccio. Non vorrei, ma io ho pensato anche, tra i due per vermi, il cittadino è fatto. Ma se non è che chi manco mi avrà tagliato il pezzo d'uso, ma pensavo sulla casa di non penso, perché se vado del giro lo denuncio. No, Tony, è come, perché cosa la placca? Se si tratta di corpo molle, non c'entra nulla rosso. È il corpo molle praticamente che si attacca alla spina dorsale, va raschiato alla spina dorsale, non è una cosa dura. Perché rosso? Per quale motivo la placca? No, perché allora, ti spiego. Dove fosse negoziatico, il canale è più stretto, quello di disco comprimeva, capito? Infatti, quando io sono andato a Sassa la prima volta, 6 anni fa, questo chirurgo mi ha detto, tagliamo un pezzo di osso, mettiamo un po' di titanio, e oggi te lo taglio alla mala. Mentre questo qua, quando mi ha visitato, tutto quanto, prima di operarmi, dottor Teresuti, giustamente, Alghero, ha visto la mia risonanza, e ha detto, sì, molti fanno l'osso e mettono la placca, ma io non c'ho bisogno, io ti faccio il tagliato. Se tu vuoi neanche di dolore non ce l'hai più. E ti ci vado a casa dopo 2 giorni. Infatti così è stato. Però ripeto, se mai non più mi ha detto, da quando c'è questo risultato, da quando per 20 di mezzo. Pensa un po' che ci stava dimettendo dopo 2 giorni, poi non ce l'ha fatta la mia. Io sto male. Allora me l'ha dimesso le domande, che c'è bisogno di tenersi. Però vedi, a Manone è andato bene, a me è male, mi stai a Fagoglia che ascolta, mi dice che... Manone ha avuto un'altra operazione, gli hanno messo tutto le placche. Sì, è diverso, perché allora Manuele gli ha tolto l'ernia, però gli hanno messo un taglio a fianco che l'ha messo con una gabbietta, non so per cos'è, c'è un questa gabbietta, e due tagli dietro, hanno messo le due placche con le fisse al titanio. E ha risolto tutto lui, come ha più. Ma lui c'aveva anche... non c'era più l'osso cartellogino che c'era consumato, perché non c'erano messo le placche. E come le verso, camminava, eccetera, spregavano e quindi vedeva le stesse, giustamente, da loro, il suo corpo, visto che sto camminando. Ehi, mi ha ricordato come cammina fui io, prima di operare, non mi ricordo, già abbiamo visto, quando abbiamo piazzato l'antenna, come ha camminato, come lo dice manca un mio. Se vai uno zombo e tu vai addosso, vabbè, tutti si ripreserò bene. Magari non al 100%, ma magari anch'io quando mi alzo la mattina, prima di riprendermi ci passa almeno un'oretta, sono tutto dolore, proprio le gambe, la schiena, le braccia, il collo, eppure il materasso è nuovo, l'ortopedico, ma non è che è il materasso, no, il materasso è nuovo, allucinante, è così, cosa vuoi dire, non so cosa dirti, va bene. Purtroppo dolori ce li abbiamo, siamo già anzianotti e bisogna tenerci avanti bamboli. Purtroppo, dai, non si buffa. Però l'importante è andare sempre e via. Che medico sei qua? Che mi sono parlato per fare la mia pensione, grazie a Dio, che a me è normale. Ma no, che ogni volta che posso sto in piedi, 10 minuti mi devo sedere per forza, e dove cazzo sto zitto? E cavolo, ecco, voglio vedere in realtà cos'è che non fa. Perché ho questi strani dolori che mi tira il zitto? Non lo so. E dai, faccio un'altra risonanza e poi una notte. Non è che sia passato tantissimo tempo e ci vuole anche di avere pazienza, perché il primo periodo può succedere che ti faccia male, anche a me faceva male il primo periodo, poi piano piano i dolori si sono alleviati, sono andati diminuendo sempre di più. A me infatti l'ospedale mi ha detto queste tue parole, dice quanto tempo ce l'aveva, lei? 3 o 6 anni, e ci vuole un po' di tempo, e poi piano piano non sentirà più niente. Quindi dice, se lei l'avrebbe avuto subito, 6 anni fa, se l'avrebbe fatto questo problema non l'avrebbe potuto, sarebbe subito passato. Il mio collega ci ha fatto la stessa cosa di qua, ma poi dopo 2 giorni c'è un grillo, che avrebbe mai chiamato, ha detto, io sto ancora male, è possibile, è possibile, ma non è quasi male, oppure è un grillo, non c'è più dire che l'aveva appena avuto e si è operato. Io ho fatto 6 anni, tanto è vero che sera ha calcificato, diciamo, la signora sale e l'ho replicata. Io sono stato ora sotto il tempo. E mentre invece vado bene 4 ore. Poi c'è questo, dirò che io non sto mandando mai troppo l'estesia generale, dirò una cosa, che se mi dicono che devo di nuovo operarmi per altre 2 piedi, io ce l'ho dopo con un tiro, non ho più paura. Io mi ricordo che c'era l'estesista che era una bella troppa di canna vicino a me, sono bella toccata, ma un po' la viro, e ho detto, ma diventa la giocata, cose anche che metteva la fare davanti le braccio, e poi ho detto, ma l'estesia che sta facendo? Ho detto, no, troppo. Come ho detto, se sento le parole, io ho chiuso gli occhi. E poi ho sentito Antonio, mi sono svegliato, sì, andiamo in camera, tutto fatto. Adesso mi fanno passare 2 secondi. Che ci ho fatto passare i durori, me? Comunque, alla gnocca. Comunque, Tony, a mio cognato ha operato la linea del disco e per non avere più dolori totali, lui è di Alghero, quindi si è fatto operare all'ospedale Marino, proprio dal figlio di professor Menis, bravissimo Giuseppe, molto bravo, è quello che ha fatto passare a me i dolori alla schiena, facendo le filtrazioni, curandomi e facendo, perché ero a pezzi. Mio cognato 3 mesi ci ha messo, come sta dicendo Gianni, non è una cosa così che ti sei operato, dopo di 15, 20 giorni, un mese, tutto a posto, no, non è uscito. 3 mesi ci ha messo mio cognato a riprendersi totalmente, però ogni volta che va in campagna, si mette a fare qui e là, ogni tanto anche lui si deve sedere, perché la fitta la sente. E vabbè, a me sono passati 1 mese e 3 giorni, come si è detto, dal 19 gennaio che abbiamo operato. Troppo poco, hai ragione Gianni, troppo di bevere, ma troppo di pazienza, Tony. Aspetta, adesso mi sono ricordato, infatti mio cognato si lamentava sempre, ma ha detto a me, io mi sono operato qui, là, stavo qui, stavo là. Vabbè, vai, fatti vedere. Andava a sudare Mario e diceva, Pinè, devi stare tranquillo, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non prendere niente. Se senti qualche dolorino prendi un antinfiammatorio e basta. Non fare niente, non fare sforzi, tu vedrai che piano piano sparisce tutto. Infatti adesso è in netta forma e c'ha l'età tua, mio cognato, capito? Quindi non è un ragazzino. Perciò anzi è più grande di te, ne ha 69, 68. Però adesso sta bene, sta bene. Però l'ortopedico gli ha detto di non fare stravizi e soprattutto di non sollevare pesi. Questo gliel'ha detto. Che dia più tempo che così, magari. E con questo non siamo tutti uguali. A me l'ha detto il dottore lì. Non è perché lì ci ho messo di meno e solo due ci ho messo di più. Sono due operazioni differenti, una dall'altra. Sono operazioni delicate e basta tutto. Tony, dieta, ma non te lo dico perché sei un grassone. Devi scendere ancora di peso. E tu vedrai che mi dai ragione. Io quelle fitte che avevo alla schiena, 10 kg, mi sono bastati per essere in netta forma. Non sono al 100%, però al 99% ci sono. Mentre prima invece io, qualsiasi cosa facevo, mi dovevo prendere un antinfiammatorio perché mi faceva male la schiena. Ed era tutto dal peso che avevo, perché 10 kg in più sono tanti per l'altezza che abbiamo, capito? Sono tanti. Guarda qua, io non ti compare perché io mi sono pesato, come sono arrivato qua, 94 kg. Oggi mi sono pesato 92. Sto mangiando pezzi di pollo, insalata, solo la notte a cena una mela o un'arancia. Sto scendendo piano piano. Sto cercando di dimagrire giustamente perché ho detto che no, che devo camminare. Ci sono poi almeno delle dimensioni e devo camminare. Giustamente io cammino fino a quando ce la faccio, io già. Poi dopo una volta più mi devo già che mi cedo. Quindi, secondo me mi trovo a Sembuoso, mi muovo a camminare, non vedo una galleria, non vedo un posatore, non vedo un muretto, per poter sedere via fa male, non fa male, perché ho paura di uscire a camminare, perché secondo me mi trovo e devo sedere per terra. E vabbè, dai, vabbè, piano piano, aspettiamo, dai, vediamo che ci diamo un po' di peso, vediamo, c'ho un po' di pancia, è la verità, e non ne ho, perché le strutture ce l'ho grosse, da solo un piccione. No, assolutamente, viene di Beggio. Però quella pancia faccia che hai, se tu la scendi, non comprima e soprattutto sull'ernia del disco dove ti hanno operato. E vedrai che stai molto meglio. Che è successo a me? Io vado a bassa, non ero grasso. Mi sono messo a dieta ferrea, a oggi sono 12 kg persi. 12 kg, capito? Fammi pure le barre di buco. No, già, pure le barre di buco sono sparite, tranquillo che sono sparite, sei da tanto tu che non mi vedi. Sono sparite anche quelle, pancia, barre di buco, il fisico sta diventando normalmente la grande. Stavo andando in palestra e invece hanno durato la serrata, ho già avuto i ricchi. No, io ho detto avevi, no, ti ho visto che adesso dimagrito un bel. No, io avevo un bel barri buco. Adesso non più già. Sto bene perché stavo male. Qualsiasi cosa mi mettevo a fare, mi dovevo prendere una bustina, adesso basta. Mica non che mi ha giocato di lavori. Le basi che mi ha fatto Giulio sono pesanti, non sono giocattoli. Le ho smontate da sole, portate su in mansarda, ripiegato tutto, ripiazzato la grande. Ho fatto tutto da solo, non ho aiutato nessuno. Sono sempre appeso agli armadi, spostando pesi. Ne ho sceso due amplificatori che pesano 25 kg l'uno da solo, dal piano del coso, dell'armadio. Ho fatto un sacco di cose che prima non potevo fare, no, non c'era niente da fare. Vai, Anto. Poi peggio. Anche io appena dovrei scendere, però grazie a Dio già sono sempre in forma. Sempre cammino a piedi, cioè faccio. Sto bene, da, diciamo. Vabbè che c'è qualche anno in meno di voi, Ma quando si tratta da luci da saltizza, non ci pensi due volte. Tanto quanti anni c'hai? Io 36 anni c'ho. E per me secondo me c'è stato che tutto quello che ho lavorato, i pizzi che ho fatto. Cioè, ancora sei nella giovinezza tu. Se io potessi camminare, credimi, io mi avrei fatto la budi fino alla fattoria. E sei sceso e salito. Tu pensa, quando io potevo camminare, avevo prodotto la macchina, l'avevo altro che c'era il conscio. E da quando l'ho fatto a piedi in piena, tranquillamente, come niente fosse, a me piace camminare. Purtroppo, in queste condizioni non posso camminare. Magari invece ad tutte le tattue, magari. Allora a me già mi piace camminare. Cioè, mi piace molto. Quante volte al lavoro ci vado a piedi, no? Non abbiglio la bicicletta. Ma da voi, a tutti a sarcizza, vai! Vabbè, chi se già mi piace? Io tutti lo facciamo, dai. A tutti piace mangiare. Anche se i dottori dicono che si mangia per vivere, non si vive per mangiare, ma io non sono d'accordo, perché mangiare è una cosa, è l'unico momento che c'è di pace, quando sei seduto e mangi. Ma non è che abbiamo mangiato chissà quanto, ho mangiato due sul salsiccione, col pane. E basta lì, cioè no, ma poi niente cominciano il primo, il secondo, il quarto, il quinto, si abbuffano. No, noi mangiamo di meno. Io sono abbastanza equilibrato, cioè se mangio prima non so nient'altro e non posso un po' più. A me mi basta solo quel poco che mangio e mi basta tutto, capito? A volte mangio solo la frutta, a volte mangio anche un'insalatina o una pettina, poi di pollo o tacchino, per quello che mangiare basta. E vabbè, speriamo che basta. E anche io ce l'ho qui dove mangio solo pollo e tacchino, adesso mi sto comprando carne di cavallo, carne di vitello, insomma, un po' per cambiare. E ho fatto un po' di tempo che facevo pezzi di pollo con i capi, che è un bel buono. Però adesso un po' sto cambiando, la carne di cavallo mi piace un bel. Sì, ma Gianni, pensi a me che abbiamo noi, che facevo tu, ce l'ho anch'io, giustamente. Le carne rosse, non ho detto di no, me lo mangio mica, Tacchino e pollo, quello che era la tua dieta, capito? Lo so che la carne rossa fa male a tutti, lo so anche a me. Fa venire anche il cancro quando ne mangi molta, il cancerogeno quando ne mangi molta. diciamo che al tempo mangio carne, mangio pesce, non è che mangio sempre carne. Va bene, dai, io sono seduto sul letto, io entrerai, mi guardo un po' di TV e tu mi contento che domani c'è un casino a questo affare. La dottoressa me l'ha fatto fino al 13 di marzo, dopo complicazioni, perché guarda dottoressa, io a te travaglia è stato ceduto, mi avete condizione di sorte, mi avevo medicato, MC08, antibiotico, medicinale, eccetera, eccetera. E quindi mi ha detto, no, quando lo vedo che sta bene, io non lo faccio lavorare. E oggi domenica, se continua così, oggi ho fatto la malattia alla pensione, buonanotte, tanto mi cioè, mi manca 6 mesi e ciccia. E non stai bene tu. Vabbè, ma sto male, capito. Va bene, dai, io vi ascolto ben volentieri, però per voi devo riposare un po', non mi consentito, non ho fatto bene. Grazie per il consiglio, ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Gianni, statevi bene, già ce la sappiamo, dai. Ascieri, quindi, Claudio. Cappa di Roger, Antonio, quando sei pronto a fare quel lavoro, aspettiamo ancora un po' di tempo bello e poi vediamo a Sussa come avevamo deciso, non c'è problema, devo sarebbe trovarmi. Ciao, buon riposo e buon tutto, avanti bombolo. Ehi Cappa, ciao Tony, ci risentiamo le prossimine, avanti Gianni. Ehi, ciao Tony, ciao, buonanotte, dai, e buona visione, a cura della Riccardis. Ciao Tony, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, ciao. Avanti, go. Ehi Cappa, ehi, ok. No, ma anche noi facciamo molto il primo, il secondo non lo mangiamo, magari se c'è un pezzo di formaggio o qualche altra cosa così e basta. Non evoluziamo molto la notte, perché sennò non va bene neanche. No, io sono il contrario, primo non ne mangio in tutta la settimana. Poi mangio il primo solo la domenica, quando viene mio figlio, oppure mio nipote, cosa faccio per primo? Faccio ravioli, ma ne mangio anche io, ravioli, pasta al forno, questa roba così, un po' liquida, dopo tutta la settimana non ne mangio, mangio l'insalata, una fettina, oppure cosa ti posso dire, faccio i peperoni con la carne, eccetera, eccetera, mangio i peperoni una fettina. Cappa, non qua come te qualcuno, io faccio chile e cose, dopo si mangia i merendini. Andare. Ah, io merendine non ne mangio nulla. Se mi parli di caramella alla linguizia sono ghiotto però. Pure a me se mi va bene di base. Sì, oh già, non andare mai con Antonio al bar e mangia le paste. Non le mangia, non le morsica, le divora. Cosa fa? Lo smacca il bar. È un mangione di paste lui, eh. È un mangione di dolce Antonio. Già lo so già. No, non ti puoi capire, l'altro giorno ho provato questo al pistacchio. Mamma mia, che cosa amara! Non ti è piaciuto? No, no, la bella l'ha fatto con farina integrale. Ma che non c'è la buona in mezzo all'anche. Io, guarda, le paste che amai io te lo dico. Le frittelle in primis, quelle con la crema. Poi mangio le ciabatte con la crema e i cannoncini. Questi sono i miei tre tipi di paste che piacciono. Poi mangio anche qualche altra pasta, però questi sono quelli che mi piacciono di più come gusto. Cappa, a me mi piacciono un po' di tutte le paste. Tranne quella Nutella, se la posso mettere in mezzo alle gambe. No, io te l'ho detto, mangio questi tre tipi di pasti, a volte mi viene l'Alzheimer, mi viene quella di mangiare, una favola, una voglia morbosa, dopo che stai tanto tempo senza mangiare dolce, allora vabbè, me ne mangio tre e fai. Cappa. Già mi la mente, Uyaka, ora mi ammentavo la pasta, ha detto, ma dopo lo sa. Già mi ricordo della storia adesso. Cosa? Perché lo sai. Poi tu dove vai a fare colazione? La colazione una volta solo, perché apre troppo tardi. Ma già ti ho visto, non ti preoccupare. Oh, anche io, sono un mangione di dolci, però non posso, mi sono limitato, quindi dolci li mangiamo solo una volta alla settimana. La domenica non mancano mai le paste, le frittelle, qui e là, capito? Qualche ciambella, qualcosa che fa l'aria, tirami su, cioè queste cose normali, però una volta alla settimana, tutti i giorni no. Io quando faccio colazione non mangio pasta, prendo un latte macchiato, un caffè macchiato e basta. Boh, finito, pure mangio una frutta, una spremuta, qualcosa del genere, se no niente, mica. Mentre ero frullato nell'aria, lo sai cosa c'è per prendi? Dici schi che vado a mangiare. No, io la mia colazione è due paste e un latte bollente. No, che sono due paste? Te già, due a due. No, Madonna, Ronaldo, dove sei partito stasera? 2-0. E altro, io te la appoggio perché anche io sono goloso di dolci, però non posso mangiare, quindi evito di mangiare, ma a volte mi si presentano certe paste che non le posso fare a me. No, già rimagno, via, tutta la sera, poi smaltisco subito perché sto sempre in movimento, non mi fermo mai. Ma se tu le calorie che metti nel corpo sono più di quelle che consumi, non smaltisci quello che devi smaltire. No, lo bringi sempre vendi, gioco, e dove vuoi andare? E anche io non vedo così a travagliare, fa carità. C'è adesso qualche cosa, ti capisco perché io ho fatto lo stesso tipo di lavoro, non lo facevo con le bombe, lo facevo con la merce, però lo facevo. Io sono fatto così, sono sempre magno e cioè smaltisco subito la roba. E quindi si ingrassa in mondi, so che ingrassa in atti, in nardi, c'è sempre lo stesso alla fin fine. Guarda, adesso parla chiaro, basta che ti pesi te ne rendi conto se hai ragione tu o se hai ragione gli altri. Ma io lo so molto direttamente, non rubi gli abbassa. No, ma sono molto agile anche, sembro così, ma no, molto agile anche lavorando, no. Non me lo sento il peso addosso. Lo so. Te ne accorgi adesso, te ne accorgi dopo, tutti i pesi che prendi, poi si trasformano tutti in dolori, come è successo con me. Lo so. Per fortuna sono di ossa molto grosse. E io voglio due gusti, gatti, fare i due anni, due cosci, ma sono così come te. I polsi miei sono ben grossi. Anche io sono muscoloso, cioè nella gamba soprattutto, anche nelle braccia un po'. Ma è davanti così ti rubate nemmeno, non avevo poco di fa. Io lo stesso, se avevo messo anche nelle gambe, non ho le palle, nei muscoli, però si vede che gli sforzi li ho fatti in vita mia. Le gambe lo stesso, c'erano due polpacci, dosi di lavanda, mi hanno chiesto se facevo calcio una volta perché le pantaloncini, e questo mi ha detto se facevo un calcio perché aveva visto il polpaccio, che cazzo li ha polpacci? Pure io sono così. Io ho il polpaccio di mezzo grosso. E che ce l'ha giù un muro? Cusce, la sedi zero, le cusce delle gambe, ci ho sviluppato i muscoli. Anch'io, molto sviluppato sono. Per carità. Assumi, no, ho già venito addosso. Ho messo tutto per terra, nelle buste. E domani faccio un altro viaggio. Dopo che del buvaggio con due capiotta uno, grazie a te. E allora si è asciugato a mezzo la ruzzi. Ah, così, la ruzzi tu di tu. Non so, vabbè, per me è anche un po' dispiaciuto, va. Vabbè, tu, non ci vuole, ci vuole, c'è niente da fare. Ciao, io pensavo che l'abbia morso, ma ha detto, mamma mia, cosa hai già combinato? E cosa vuoi fare? E fa cosa l'hai buttata? E a creare un pennellicattore. Così che da borsa, in negozio, l'avevamo detto, vai di ne ho fa casino in occhi. L'avevamo detto, 3-4 ore, cazzo, non le passo da babbo. E babbo l'ha giubilato io. L'ha giù conto che sta massa di questa cosa di gazzotti, o io gli ho come tirato giù fatto. Ma poi andiamo dopo l'ambulanza, un casino la voce, lasciamo perdere va. E te la giù andate in e non comprende. Ehi, tu che attori. Bisogna avere pazienza, non bisogna usare le mani, bisogna ragionare. Ma cosa ragioni? Uno che ti passa scomandi, cosa fai? Ah beh. Cosa fai? Noi abbiamo detto solo di andarsene, che non era il caso di comportarsi così in questa maniera. Lui ha insistito, dopo il cazzo basta Guido, non ci ho visto più, siccome c'era anche una signora lì dentro, cioè dentro un negozio pure, c'era la mamma mia, cazzo, pure a un processo, un casino qua, è successo, cioè, l'abbiamo anche distaccata, ma cosa c'era appunto in la ghida pure. Ah, meglio, ma a te in Nande, che tu ne ha parlato di bedi qui, c'ha fa faccia, ha parlato di bella culo. Ma l'ha detto io, non l'ha detto che da nessuno. Ma quando eri via Armando Diaz? Ehi. Già mi aveva detto Pierpaolo. Ah, te l'avevo raccontato. Ma l'aveva raccontato sì, è successo mezzo casino. E capa, se dico andatini ma cosa non fa, cioè dico vai tranquillo già, e tutti i monti e cosa, cioè, perché lì dentro stiamo lavorando, non siamo gli ugende a ballucimi, anzi, mi racconta di tutta la bomba buona pittorra. Perché la gente così provoca senza conoscere le persone, capito? A metà delle persone bravi ci si ha di me, non vi si vogliono. E così, la realtà è quella. Vabbè, purtroppo, c'è gente che non capisce ancora. E vedi già che va bene. Sì, vabbè. Ma se si può evitare di usare le mani è sempre meglio. Io sono sempre del parere che le mani vanno usate proprio in estremis, no? Se si trova una persona che ragiona, bisogna ragionare e arrivare a una conclusione senza stare a usare le mani. Ma per cui, uno quando certo viene picchiato e cosa, alla fine si difende, non è che, però non è che deve essere il primo a farsi. Se ti dico, vai tranquillo, mi dai stesso nuda, bomba, poi è una cazzata era, cioè dici che l'aveva toccato la macchina, ma poi non è vero, cioè perché la macchina sua non c'è neanche lì, cioè, quindi tu lì, cioè gli ho detto, guarda, viene mio marito, ti fa l'assicurazione e basta, cioè ho detto, non c'è problema, e già te la voleva anche pagare, ecco, insisti, bum bum bum, e da voi di buona farsi da niente, cose, ne si muri tutto, mi muoci pure in tribunale, cioè, ma sembra più un imbecille, sì. Ah, quello che si era preso con la segretaria che l'aveva preso a parolare. Chi so? Già me l'aveva detto per Paolo, l'aveva raccontato. Sì, allora, l'avete cacciata in due, se ce l'avevi di tutta la Iana. Più di tutti io, cazzo, che l'ha di tutto voce. Vabbè, quello non lo sa comportare. Se ti ha toccato la macchina, se ti sta dicendo ti faccio l'assicurazione, se te l'ho toccata non c'è problema, tu già stai a... Hai detto che l'ha presa a parolacce, non è che tutti i comuni. Adesso mi sono ricordato una cosa già. Non mi viene a vivere, poverino. Lui, che stravolta metto nell'aria. Minchia, cazzo. Stavamo scendendo a dei punti dal padre, noi tutte le domeniche, io, lui e Battisio. Scendevamo, la mamma e Battisio, la mamma e Storia, tutte e due, poverini. Scendevamo tutte e due dal padre di Nuccio, no? Di Caretto, quello del gas, campagna lì a Sant'Orsola. No, Sant'Orsola, a San Giorgio, là. Sto entrando lì nella stradina di San Giorgio, lì si dice fuori strada, impressa, boom, e le tocca lo specchietto. Ehi, mamma mia, l'altro non ti ha fatto niente. Fermati, fa il retro marcia, un pazzo. Simone, che se la battisce il poverino, guarda, ma non mai non lo può raccontare. È diventato bianco, è diventato pittore, per favore, c'è 70 anni, non mi interessa, non mi interessa quello che ho pagato anche. Ma come eravamo in tre noi? Ma cazzo, ma ti rilassi. Sì, non ti ho fatto niente. Ti ho appena piegato. Non mi interessa. L'ha messo appresso. E gli ha tagliato la strada. L'uscita dalla stradina, ci ne vada. Castro gli ha preso per il petto, l'era bugato dallo sportello. Io non ho mai visto un uomo del genere a 70 anni fare una cosa ad un ragazzo. Minimo aveva 30-40 anni tu bizzino. Tu ci rimbatti in caso, sei scintore per anche lei. Non ti permettere mai più, ho capito. Guarda, tu sai che tu hai solo un po' del corso, ti ho un pugno in faccia. Un cane arrabbiato, mai l'hai visto. E io ancora l'ho visto una volta che quando guidavo ancora i tratti, insomma, tanto tempo fa, perché poi l'avevo messo in deposito, che questo qua ha suonato il campanello due volte. Lui ha preso, ha tirato il freno a mano, se non esce fuori chi ha suonato due volte, io non ripasto. E questo ha detto, no, sono io, ho sbagliato. Ha preso lo sportello, tira qui per cavare e da tirare un fatto fuori. Ho capito, ma certo quando guidava tu era molto più giovane. Io ti sto parlando, quindi è morto che aveva 77 anni, quindi aveva 70 anni, perciò non ero ragazzino. Ma ti dicevo di sera, ho detto non è possibile, mi sono dirato tutto, io non riesco più con te, una vergogna. Alzo, vengo da te, la macchina nuova, alzo, qui no, alla via di Salviesta, Riccia, ma lui ci teneva tantissimo. Fatico, ma chi c'è? Non usciamo più con la macchina tua. Io quando ho uscito con Claudio, o se no andiamo con la macchina mia. E facevamo così, dove c'aveva la Fiesta. Io mi pare c'avevo il Volvo, sì, il Volvo, il V40 avevo. E ma chi c'era la Renault 19, grigia. Anzi, c'è un ritenti, con te non ti potevi sedere. Se poco a poco facevi qualche infrazione, ti metteva appresso. Mica ti ha fatto lunga, amico. Non dovessi passare a sinistra. Cazzo, se ho passato da parte. Chi ha segnato a guidare? Lui guidava così, sempre incazzato. Qualcosa avvicinato. Sì, era bravo, ma era un po' burbero, dai. Era un po' attaccato. Sì, anche la mangia a padre, lo so io. Se ti succede a 70 anni ti mette le mani addosso ti ammazza. Questo uomo di 2 metri che ti muove una mano, ma è vigariglia. Se questo ragazzo è diventato bianco, un ragazzo di 40 anni, cazzo l'aveva pigliato un balubetto che ne ha bucato da un finestrino. Vabbè, proprio dopo nella vita non si sa mai, vedi tu che si spaventa e ti batti. Poi sei tu lo che sei, però in mezzo a mille c'è quello che ti parte di brutto. No, ho capito, Antoca, ho capito, ma tutti siamo così, cosa c'entra? A me succede una cosa del genere, è chiaro che cazzo mi tengo in guardia e cazzo ci fa ridere con un gatto un pugno a faccia. Ma non ci arrivava neanche questo, si era bruciato in macchina il tubizzino. Cosa gli ha dato tempo neanche di scendere dalla macchina, cosa di ieri? L'ha graffato per amore un gordo e l'ha tirato verso lo sportello, cioè per il finestrino aperto, le stava chiedendo cosa c'è. Manco aperto bocca. E meno male ce l'avamo io la buona nel marchigio. Se no non so come ne erano usciti, capito? È una cosa allucinante, l'avevano detto. Allucinante, doveva uscire. Era fatto così, tirava il cuore, però se poco a poco. Cazzo, era tremendo, con me non ha mai avuto un ba, perché io lo conoscevo, quindi a volte anche cercavo di assecondarlo in certe cose, perché se lo contraddivi anche contraddendolo, e tu ci cazzavo, ma tu dicevo, ma ti rilassi, cazzo, ti veniva anche infarto. E infatti poverino già è venuto l'infarto in casa tua. Un poco più rilassato, vivo. Non è imbriaco da niente. Perché magari non trovi neanche quello forte, a ciapichisso, che ne c'è quello desserino, e tu hai finito, d'arresta, c'è ma il gol che d'arresta. E poi ce l'ho trovato gli armati, perché all'imputti uno ha gambarizzato uno con la pistola, dove gli ha dato la precedenza, questo qua gli ha detto cosa, questo se l'è sceso dalla macchina per andare in conto, ha preso la pistola, questo l'ha sparata alle gambe. Hai un pesce? Non si sa mai. C'è sempre quello un po' più pazzo, se non ce la fa con le mani, c'è il cannone dietro la schiena, è uscito. Caro Antonio, bisogna stare sempre attenti, oppure il coltellino sempre appresso. Non hai visto che c'è un colpo di bala a capo iracuto? Sì, sì, ho visto. Sì, c'è mammalucchi irani. Però il problema è sempre, se non trovi quello, magari trovi qualcuno che... Cioè, cacchè d'uno dei... Ho pulizzato il carabiniere e t'arresta, cioè, dice, ah, benissimo, aspetta un attimino, sto chiamando i miei colleghi, ti fa rimasta tutta la maniera di fare la prepotenza.